Il sole incendiava la pianura, gli scudi degli opliti già schierati, i cavalieri ateniesi ai loro lati, arcieri e frongolieri su un'altura, pronti alla guerra contro Sparta e altre città, tanti anni fa. Al seguito maniscalchi e fornai, cucinieri, ciabattini e vasai, e avvocati che non mancano mai, e storici e scrittori con le spade e con le lance, perché la storia la scrive chi vince. E c'erano veggenti previdenti, e indovini sacerdoti e chiromanti, che braccia al cielo pregavano gli dèi, perché gli Achei, provetti marinai, in una guerra campale, nuotano male. E c'era Socrate, pensatore sopraffino, gran condottiero e bevitore di vino. E c'era Pericle che, temendo la sconfitta, ordinò di ritirarci in tutta fretta dentro le mura della città di Atene, con porte e catene. Beh, in città si sta di certo meglio, con il superfluo e perfino il necessario, e non importa se uno dorme o se sta sveglio, ogni uomo ha un pubblico salario, e in assemblea ognuno ha il diritto di parlare o stare zitto. È il vantaggio della democrazia, tutti uniti in uno stesso sogno. Ogni testa vale un voto e così sia, tutti uguali in un identico disegno, in una nuova idea di società. Tanti anni fa. Ma all'improvviso si diffonde un morbo oscuro e nessuno si sente al sicuro. E più nessuno si saluta nella via e si accusano gli dèi e la mala sorte, perché si scopre che in questa malattia anche un sorriso è un segno di morte. E morivano pliti e cavalieri, canta storie, imbonitori e mercatanti. Ricordo ancora come fosse ieri che finivano nei fossi tutti quanti, giovani e vecchi, amici e parenti, senza fiori e senza pianti. E la città in catene diventa prigione, ma anche il pane si mangia spazzatura. C'è un moribondo in ogni abitazione, mentre chi vive vive in preda alla paura e si aggredisce per sospetto o per timore chi sembra un untore. ma non si spegne la saggezza che è, e la città si unisce ancora in assemblea. C'è chi piange per la peste e per il lutto, e c'è chi grida che la peste non importa, perché colpevole di tutto è solo Sparta e il suo complotto. E si riaffilano le spade a doppia lama e ricomincia la battaglia come prima, cavalieri sul ponte e cavalli nella stiva, perché stavolta è dal mare che si arriva per una nuova guerra nell'italica terra. Viva Socrate, stratega sopraffino, valoroso in mare e in fanteria, grande oratore, gran bevitore di vino, che anche al tempo della triste pandemia parlava a tutti di filosofia, per la strada e perfino all'osteria. Ma il nemico non è molto disposto a cedere il potere, a lasciarci il suo posto, e la sconfitta è cosa ormai sicura, e in assemblea si denuncia la congiura. Intervengono tutti, cavalieri oratori, donne e cavalli no, restano fuori. E strateghi iconoclasti senza dei e senza morale sono accusati di aver agito molto male. Ai cittadini e ai soldati mancano cibi e bevande, mentre becchini e usurai vanno alla grande. E tutti dicono: siamo stanchi ormai, la guerra non fa più per noi. E alla fine l'assemblea si tace e si baratta la sconfitta con la pace. A tutti si concede l'amnistia promulgata dalla nuova gerarchia. Socrate parte che con l'ultimo bicchiere smise di bere. E abbasso Socrate, sofista imbroglione, corruttore di giovani ubriacone, in mare e in terra cattivo comandante, nel momento della guerra più importante, non salvò nella sua patria nell'onore, salvò solo il suo amante. E finisce così l'assurda confusione che in assemblea nasceva in ogni discussione, e come nei processi coi giurati decidono i migliori e i più fidati, senza filosofi che fanno solo danno, e poi a votare neanche ci vanno. E cambia Atene dalle fondamenta dei 400 comandanti di città, se ne scelgono alla fine solo 30 estratti a sorte per imparzialità, e all'antica libertà si fa una festa per quella che resta. Così cambiò il concetto di lotta civile e cambiò tutta la politica, il suo stile. Si trasformò la lotta in lotteria e cambiò faccia la democrazia che aveva governato la città 2500 anni fa. 2500 anni fa. 2500 anni fa.